Focus Economia. E 10 Focus Economia, venerdì 2 maggio, ben trovati da Vincenzo Miglietta. Tanti gli argomenti di questa puntata che, pur cadendo nel pieno del ponte del primo maggio, offre molti spunti interessanti: gli appuntamenti fissi, i mercati, il FTSE MIB in questo momento è a 0,12, lo spread del BTP a 10 anni è a 158 punti base. Parleremo poi delle materie prime, poi gli approfondimenti con in primo piano la riforma della pubblica amministrazione annunciata dal governo. Dove si interviene, quali saranno i tempi del cambiamento ed ancora primo maggio, festa del lavoro. Non parleremo tanto del nostro paese, i cui dati della disoccupazione sono a livelli record. Quanto di chi in questi anni è riuscito ad intercettare la ripresa, caso Stati Uniti, con i dati del pomeriggio, quindi l'andamento del mercato delle auto con i dati di inizio mese. Poi faremo il punto su Alitalia. Ricordo il numero per i vostri sms: 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Partiamo allora dalle notizie in breve. Breve, partiamo dall'oro: $1,290 l'oncia, più 0,5%. Il petrolio stabile a $99,4 al barile. L'economia internazionale: l'economia americana ha creato in aprile 288.000 posti di lavoro, ed è questa la notizia un po' del giorno che trovate su tutti i siti. L'apertura di questi momenti: il tasso di disoccupazione è calato al 6,3%, lo comunica il Dipartimento del Lavoro, ed è questo un dato ai minimi dal settembre del 2008, quando è fallita, lo ricordiamo, Lehman Brothers, prima dell'elezione del presidente americano Barack Obama. E un contributo, non ci dobbiamo stupire su questo, all'occupazione negli Stati Uniti arriva come al solito dal settore privato, che ha creato posti di lavoro per 50 mesi consecutivi, aggiungendo 9,2 milioni di posti. Lo afferma il presidente del Consiglio degli advisor economici della Casa Bianca, Furman, commentando proprio i dati. Il presidente continua a mettere in evidenza che si può e si dovrebbe fare di più a sostegno della ripresa, incluso un aumento del salario minimo, aggiunge Furman. Il rilancio di Pfizer su AstraZeneca non passa l'esame del board del gruppo britannico. Il CDA di AstraZeneca, si legge in una nota, ha respinto l'offerta di Pfizer, rialzata a 50 sterline per azione per un totale di 63,1 miliardi di sterline, giudicandola inadeguata. E poi la casa farmaceutica tedesca Bayer ha avviato trattative in esclusiva per l'acquisto della divisione farmaci di largo consumo della Merck. L'offerta, secondo quanto riferito da fonti vicine al negoziato tra le società, ammonterebbe a circa $14 miliardi, da pagare in parte in contanti e in parte con uno scambio di asset farmaceutici, con la formazione probabilmente di una joint venture comune. Bayer è rimasta l'unica in lizza, lo ricordiamo, dopo la rinuncia della britannica Reckitt. E poi la Royal Bank of Scotland, che triplica l'utile trimestrale a 1,2 miliardi di sterline, battendo le stime degli analisti, e il titolo vola alla Borsa di Londra segnando un aumento dell'11%. A spingere i profitti sono le minori svalutazioni rispetto a quelle massicce effettuate lo scorso anno, che avevano limitato l'utile a 393 milioni di sterline. Il gruppo si attende comunque costi più alti per la ristrutturazione nel corso dell'anno. E fin qui le notizie internazionali. Veniamo al nostro paese. Ad aprile 2014, quindi il mese appena chiuso, il fabbisogno del settore statale è stato pari a circa 10.100 milioni contro gli 11.333 milioni di aprile dello scorso anno, lo comunica il Ministero dell'Economia, aggiungendo che nel primo quadrimestre dell'anno il fabbisogno si è attestato a circa 41.800 milioni, con un miglioramento di circa 6.200 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. e poi un'analisi dei tecnici del Senato sul decreto IRPEF, lo ricordiamo, il decreto taglia tasse. Cosa dicono i tecnici del Senato? Il minor gettito derivante dal taglio dell'IRAP inserito nel DL IRPEF potrebbe essere maggiore di quanto previsto dal governo e dalla ragioneria nella relazione tecnica al provvedimento, pari quest'anno a circa 2 miliardi. I tecnici sempre del Senato puntano il dito su quanto riguarda la tassazione sulle quote di Banca Italia, utilizzato come copertura proprio del decreto, e secondo i tecnici del Senato tale intervento pone dubbi di costituzionalità. E sin qui i tecnici del Senato. Rimaniamo però in un argomento che riguarda la Banca d'Italia. Secondo la Banca d'Italia, la ripresa nel nostro paese, la ripresa ciclica, si va estendendo ma resta fragile. Lo afferma quindi la Banca d'Italia nel rapporto sulla stabilità finanziaria, dove si segnala come prosegua la fase di debolezza del mercato immobiliare, mentre vi è un buon andamento delle esportazioni. E si attenua sempre, secondo Banca Italia, anche nel 2013 la caduta del reddito disponibile per le famiglie italiane. Dal punto di vista finanziario le famiglie restano infatti solide, secondo l'Istituto di Via Nazionale, grazie anche al basso indebitamento e all'aumento del risparmio. Entriamo poi in concreto nella pancia delle banche italiane. Cosa detengono le banche italiane? Riducono, secondo Banca Italia, i titoli di Stato in portafoglio, mentre aumentano gli acquisti da parte degli stranieri. Secondo sempre il rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d'Italia, a fine 2013 la quota dei non residenti era salita di 0,9 punti al 27%, mentre quella delle banche era scesa dal 23 al 21,7%. Così come una buona notizia almeno per il mondo produttivo, si è parlato molto negli scorsi mesi, negli scorsi anni, del problema del credit crunch, della difficoltà di accedere al credito da parte soprattutto delle piccole e medie imprese. Frenano la caduta del credito e i flussi di nuove sofferenze bancarie. Sempre secondo la Banca d'Italia, il rapporto segnala tuttavia come le grandi imprese abbiano attivato canali di finanziamento alternativi, quindi sembra capire che per le piccole imprese ci sono buone notizie, ma le grandi, in attesa che qualcosa si muovesse, hanno aperto canali di finanziamento alternativi. Le sofferenze rallentano al 3% dei prestiti e potrebbero accelerare le operazioni per farle uscire dai bilanci, mentre la ripresa potrebbe far ritornare alcuni prestiti in bonis. Così Banca Italia. Andiamo rapidamente al tema del lavoro. Se volessimo dare un nome alla celebrazione di questo 1° maggio, dovremmo forse dire allarme lavoro. Così ieri il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, commentando i dati della disoccupazione che riguardano il nostro paese, che restano a cavallo del 13%, pubblicati il giorno prima. Sentiamo allora un commento del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti. È allarme lavoro, ma lo è, perché i numeri sono quelli che conosciamo, ma dobbiamo anche dire che l'ultima rilevazione ISTAT ci dice positivamente che nell'ultimo mese sono aumentati 74.000 nuovi posti di lavoro. Sicuramente sì, per noi è fuori discussione, è un dato importante perché è stato assunto a livello internazionale, a livello europeo, come uno degli atti del governo italiano nella direzione della semplificazione e del chiarimento delle norme, ed è chiaro che lo faremo. E così il ministro del lavoro Giuliano Poletti. Solamente la crescita potrà aiutare il paese ad uscire fuori da questo dramma della disoccupazione, secondo il ministro del lavoro. Rapidamente uno sguardo ad Alitalia, ne parleremo anche in un approfondimento nella seconda parte della nostra trasmissione. L'amministratore delegato di Alitalia Del Torchio ha avuto degli incontri incontri con banche e azionisti per illustrare i contenuti della lettera arrivata martedì scorso da Etihad. L'amministratore delegato lunedì volerà ad Abu Dhabi per incontrare il CEO della compagnia emiratina James Hogan. Non è invece ancora chiaro se incontrerà i sindacati prima della partenza per gli Emirati. Parlare di Alitalia anche il ministro competente Lupi, che ricorda Air France poteva sottoscrivere l'aumento di capitale per Alitalia, ma non lo ha fatto. E Lupi ha garantito che si lavora su Linate prima dell'intesa con Etihad, e stiamo studiando opportunità in vista di Expo, così il ministro delle infrastrutture Lupi. Queste le notizie in breve, passiamo al nostro primo approfondimento. Approfondimento dedicato alla riforma della pubblica amministrazione. Presentate le linee guida mercoledì sera dal Presidente del Consiglio Renzi e dal Ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia, proprio queste linee guida della riforma, una riforma che riguarderà circa 3 milioni di dipendenti pubblici del nostro Paese. Prima di ricordare i punti chiave, abbiamo con noi il Professor Carlo Della Ringa, economista, deputato PD, membro della Commissione Lavoro della Camera ed ex presidente Aran. Buon pomeriggio, Della Ringa. Buon pomeriggio a voi tutti. Ecco, professore, ricordo brevemente almeno quelli che il Presidente del Consiglio ha detto che sono i punti chiave di questa riforma, che è bene ricordarlo, al momento non vede nulla nero su bianco, ma probabilmente vi saranno a metà giugno poi i relativi provvedimenti. Si pensa il Governo dovrebbe intervenire attraverso una legge delega, quindi con tutti i tempi sufficienti poi per raggiungere comunque un'intesa in Parlamento, ma anche un compromesso con le parti sociali. Tra i punti chiavi ricordati dal Presidente del Consiglio: la mobilità anche obbligatoria tra amministrazioni, il dimezzamento dei permessi sindacali, lo sblocco del turnover che dovrebbe liberare 15.000 posti, programma di prepensionamenti, introduzione del ruolo unico nella dirigenza e possibilità di licenziamento per il dirigente che rimane privo di incarico oltre un certo termine, viene fissato un tetto di 40 prefetture. Il varo effettivo della riforma è previsto per il prossimo 13 giugno. Fino ad allora i dipendenti pubblici potranno inviare considerazioni, ma non solo i dipendenti, anche i cittadini, e suggerimenti all'indirizzo rivoluzione@governo.it. Prima di entrare nello specifico, professor Carlo Della Ringa, in generale un suo giudizio su come è stata presentata questa riforma e le prime linee guida. Beh, il giudizio è positivo, nel senso che si predispongono gli strumenti per far sì che i servizi resi ai cittadini siano di maggiore qualità e al contempo si permetta una riorganizzazione della pubblica amministrazione che possa ridurre anche i costi. Ora, gli strumenti messi in campo sono strumenti che conosciamo in parte, cioè rendere i dirigenti responsabili dei risultati e fare quella mobilità che è necessaria per mettere i dipendenti dove ce n'è bisogno e magari toglierli da dove magari sono in numero eccessivo. Quindi gli strumenti vanno nella direzione giusta. Certamente un po' di cautela ci vuole, perché noi abbiamo anche in passato assistito a proclami di riorganizzazione della pubblica amministrazione che poi solo in parte sono stati attuati. Questa volta sembra di capire che si vuole incidere seriamente, soprattutto laddove si pongono degli obiettivi concreti di tagli, per esempio le prefetture, i segretari comunali, gli enti di ricerca, camere di commercio, permessi sindacali. Ecco, queste non sono cose vaghe, sono sì, cose concrete. Il fatto di averle detto fa capire che questa volta si vuole incidere veramente. Ecco, professore, facciamo sentire il passaggio di Renzi. È interessante, soprattutto dovrebbe fugare le preoccupazioni di chi lavora nella macchina dello Stato. Il tentativo di un cambiamento radicale dentro la PA. Ma poniamo anche una questione di metodo. La questione di metodo è che noi pensiamo che la riforma della pubblica amministrazione fatta contro le lavoratrici e i lavoratori della pubblica amministrazione abbia le gambe corte. Cioè, facciamo esempi che non siano esempi facilmente attribuibili. Se io passo le giornate a dire sei un fannullone, è difficile che il destinatario dell'invettiva si senta particolarmente motivato. Vuoi forse tu sostenere che non esistano i fannulloni? Certo che esistono i fannulloni nella pubblica amministrazione e non solo. Ma compito di chi dirige non è lamentarsi di ciò che c'è, è provare a cambiare. Questo è il punto centrale. Parte una lettera a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione. I tre punti sono: uno, sul capitale umano; due, taglia gli sprechi e la razionalizzazione dell'amministrazione, il cosiddetto Sforbice Italia; tre, gli open data come strumento di trasparenza, digitalizzazione dei servizi e innovazione. Queste dunque le parole del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. In sostanza, cosa dice Palazzo Chigi? La riforma non vuole punire nessuno, è fatta per riorganizzare, quindi non ci sono né tagli degli stipendi né lavoratori in esubero da licenziare. Quindi secondo lei Della Ringa sarà veramente così? Non si parlerà di esuberi? Ricordiamo che però un paio di mesi fa si parlava di una quota di 85.000 dipendenti da far uscire comunque dalla macchina dello Stato entro il 2017, se non sbaglio. Beh, non c'è dubbio che quegli 85.000 bisognerà trovare il modo di far sì che siano esuberi e quindi i posti di lavoro vengano aboliti, perché questo si tratta. È chiaro che poi le modalità di trovare la sistemazione per questi 85.000 lavoratori andranno individuate, così come nel privato sappiamo che ci sono grossi problemi di imprese che non riescono più a tenere i lavoratori, magari questi lavoratori sono lontani dalla pensione. D'altra parte questo governo vuole affrontare il problema anche nel privato per cercare qualche soluzione di carattere generale, e queste stesse soluzioni dovranno essere applicate al pubblico impiego, perché soluzioni diverse in un caso, certo, e nell'altro non reggono. Bisogna che ci siano soluzioni di carattere generale, e soluzioni... quindi saranno 85.000 posti di lavoro che non potranno più essere sostituiti, perché si tratta di posti di lavoro che vanno cancellati in seguito ai tagli. Ecco, la soluzioni è quella del coinvolgimento, certo, del coinvolgimento. È chiaro che non si può approcciare il problema dicendo che tutti i dipendenti pubblici sono dei fannulloni. Ce ne sono, ma ci sono anche molti dipendenti pubblici che fanno il loro dovere, e far leva su costoro per raggiungere gli obiettivi della riforma. Io penso che da questo punto di vista anche il Presidente del Consiglio abbia dato un messaggio del tutto condivisibile. Ed è soprattutto un mondo, quello dei dipendenti pubblici, che secondo almeno i sindacati è un mondo che ha già dato, e alcune misure come la mobilità sono già operative, forse tutti non lo sanno. Sentiamo brevemente Susanna Camusso della CGIL. Mi pare che siamo a dei titoli e a degli annunci, ci convince, e l'abbiamo detto ben prima che lo dicesse questo governo, che era necessario fare una riforma. Continuiamo a essere convinti che non si riforma una grande macchina come quella pubblica se non coinvolgendo e valorizzando il lavoro. Si è fatto l'opposto per tutti gli anni precedenti. Bisogna salvaguardare l'autonomia della pubblica amministrazione, e bisogna farla decidendo qual è la funzione del pubblico, perché se si ha in mente, come ogni tanto appare, semplicemente di tagliarlo, non credo che si dia una risposta positiva al paese. E così le parole della CGIL di Susanna Camusso. C'è perplessità da parte del mondo del sindacato, ma anche una grande apertura qualora le proposte del governo fossero prima o poi messe nero su bianco. Ricordiamo che fino al 13 giugno c'è la possibilità di mandare una mail al governo, rivoluzione@governo.it, proposte e suggerimenti da parte non solo dei dipendenti pubblici ma anche di tanti cittadini. E a sentire o a leggere meglio un tweet del ministro della pubblica amministrazione Madia, in soli due giorni sono arrivate oltre 3.000 mail proprio di incoraggiamento e di suggerimenti per una modifica della pubblica amministrazione. Sentiamo allora anche il ministro Madia. Partirei dal rapporto con i sindacati, perché mi sembra molto importante. Io già nelle linee programmatiche che ho presentato in Commissione Affari Costituzionali ho chiesto ai sindacati un confronto innovativo, che significa no a tavoli di negoziato, ma sì a un confronto puntuale nel merito delle proposte. E quindi io non solo mi aspetto che intervengano in questo dibattito, ma mi auguro che intervengano in questo dibattito. E penso che noi oggi offriamo dei punti molto concreti e molto puntuali. Professor Della Ringa, che tipo di concertazione, se la vogliamo chiamare così o forse un termine ormai obsoleto, si potrà trovare tra governo e dipendenti statali, viste anche le parole del ministro Madia? Ma è vero, come diceva la Comusso, che c'è, insomma, il pubblico impiego già ha sacrifici ne ha fatti. Gli stipendi sono fermi da 4 anni. Il numero dei dipendenti negli ultimi 6-7 anni è diminuito di 300.000 unità. Ci sarà ancora da ridurre, ma è chiaro che a questo punto il problema è di lavorare meglio, in modo più organizzato. E qui occorre fare anche dei progetti di cui la classe politica è responsabile, per far sì che le amministrazioni funzionino meglio, e fare dei progetti amministrazione per amministrazione, e non potrà essere fatto tutto centralmente. Ecco, questo credo che sia importante sottolinearlo. Dopodiché, concertazione, sì, la possiamo chiamare confronto, ma si tratta di questo, dove non è negoziato, obbligatorio, per cui bisogna arrivare alla fine a un risultato concordato. Bisogna confrontarsi, in cui ciascuno dice il proprio parere, dà il proprio contributo su quelle che possono essere le soluzioni migliori, e poi, come succede anche nel privato, ciascuno è responsabile, il datore di lavoro, coloro che sono responsabili delle pubbliche amministrazioni adottano i provvedimenti che ritengono migliori dopo aver ascoltato tutti, certo. E dall'altra parte i sindacati, nel caso, potrebbero organizzare anche il dissenso. Se è fisiologico, un po' di conflitto non fa male. Fa male se naturalmente si rimane sempre in una posizione di attesa e pigliare soluzioni che invece a questo Bene. Punto devono essere adottate. Parliamo ora dei mercati. Ricordo brevemente prima il numero per i vostri sms: 349-238-6666. I mercati che, almeno quelli europei, hanno chiuso vicini alla parità. Il FTSE MIB è stato sempre in territorio positivo, per chiudere invece a meno 0,01, Francoforte meno 0,49, Parigi meno 0,65. Ricordo quindi il numero per i vostri sms: 349-238-6666. Tanti i messaggi giunti sul nostro primo approfondimento, quello della pubblica amministrazione. Ricordo solamente che il lavoro, per il lavoro non dobbiamo pensare ad un derby tra pubblico e privato, però leggendo molti sms vediamo come il settore privato non ci sta a fare tanti sacrifici, almeno ci scrive Diego da Venezia, mentre per i dipendenti pubblici, scrive Diego via la letterina, l'assicurazione di cercare il dialogo, la concertazione, mentre per noi privati nulla, e abbiamo sofferto tutta la crisi. Tanti gli sms di questo tenore, ma come dicevamo ora lo spazio a Piazza Affari, ai mercati, è con noi Paolo Paronetto di Radio Corre del Sole 24 Ore. Ciao Paolo. Ciao, buonasera a tutti. Allora Paolo, partiamo quindi da Piazza Affari, da Milano, ma più in generale le borse europee, dicevo, hanno chiuse sostanzialmente sulla parità. Sì, diciamo che tutti gli listini europei hanno frenato sul finale. Se infatti per gran parte della seduta Milano guadagnava oltre 0,5 punto, raggiungendo anche un più 0,7%, mentre gli altri listini erano più prudenti sulla parità, alla fine, appunto, come ricordavi tu, tutte le borse hanno frenato, tanto che Milano è stata quella che chiude sulla parità, mentre gli altri principali listini continentali hanno chiuso in ribasso anche di oltre 0,5 punto. Quindi diciamo che la borsa non hanno reagito al dato sulla disoccupazione americana migliore delle previsioni, o meglio, diciamo che dopo una prima iniziale reazione positiva hanno approfondito un po' la questione. Diciamo che il calo del tasso di disoccupazione è stato bilanciato dall'altro dato emerso oggi dal rapporto sul lavoro americano, cioè dalla diminuzione della popolazione attiva. Alcuni, diciamo che è stato letto un po' in chiaroscuro dai mercati, che hanno preferito scegliere una via di prudenza, chiudendo quindi, diciamo, sostanzialmente sulla parità o con cali contenuti. Quindi ecco, una lettura dei dati americani in chiaro scuro e forse anche a questo punto la non voglia di investire sul mercato europeo. Comunque i dati americani segnalano un'economia che ancora va bene, quella americana e quella europea, numeri del genere, se non sbaglio Paolo, è tanto che non li vede. Ma comunque, entrando nello specifico dei vari titoli, i migliori e i peggiori di Piazza Affari, leggo velocemente e dimmi tu quale preferisci commentare: i migliori Azimut, Saipem, Mediaset, BPM, anche al centro delle contrattazioni che ieri ha reso noto l'aumento di capitale, il mercato sembra apprezzare. Partirei proprio da BPM, che è stata tra i migliori per gran parte della seduta, per poi frenare bruscamente sul finale, ha chiuso esattamente invariata. E ieri la banca ha reso noto i termini dell'aumento di capitale da 500 milioni che partirà lunedì. Il prezzo, che è pari a 0,43 euro, comporta uno sconto più o meno in linea rispetto a quello di precedenti operazioni di aumento di capitale, quindi diciamo che il mercato ha apprezzato questa indicazione, visto che si erano diffusi timori sul fatto che la banca dovesse essere costretta a offrire i titoli con uno sconto superiore per riuscire a portare a termine l'aumento. Sì. Timori quindi fugati, il mercato ha apprezzato quindi i dettagli resi noti ieri della banca. Stato appunto sfrenare sul finale, visto che è appunto certo, complice anche il clima festivo, diciamo che nessuno ha voluto prendere posizione. Bene, quindi BPM e bene anche Saipem, forse alla luce anche del nuovo contratto in Azerbaijan. Esattamente, qui Saipem festeggia questo nuovo contratto importante da 1,8 miliardi di dollari ottenuto in Azerbaijan. Il titolo è stato sostenuto da questa notizia, che è il secondo contratto consecutivo, ne è stato annunciato uno anche due giorni fa, che quindi sono ovviamente notizie positive per il portafoglio della società, che ovviamente si tradurrà auspicabilmente in risultati positivi a livello di conto economico. In questo caso non c'è stata una frenata finale, il titolo ha chiuso in avviato del 2,12%. E quindi questo per quanto riguarda Saipem. Ho scordato, ma l'avevo visto insieme a BPM, la Popolare dell'Emilia Romagna. Per rimanere alle banche, ci si attende quindi anche una trimestrale, forse è questo che spinge un po' il titolo? Sì, martedì il CDA si riunirà per approvare i conti trimestrali, gli analisti stanno iniziando a mettere a punto le loro previsioni, ci si aspetta un inizio di 2014 positivo. Notiamo anche qui che probabilmente martedì stesso anche la Popolare dell'Emilia Romagna dovrebbe dare indicazioni al mercato sull'atteso rafforzamento patrimoniale, ma diciamo che il mercato lo mette già in conto e quindi questo non penalizza in questo momento il titolo. Paolo, Tenaris, dati un po' contrastanti per il primo trimestre, bene gli utili, male i ricavi, tutto ciò in borsa come ha influito? Il titolo è andato bene, ha chiuso in rialzo dello 0,37%, ma per gran parte della giornata aveva fatto ancora meglio, e diciamo che i dati sono stati letti sostanzialmente in linea di fatto con le previsioni. Il mercato ha apprezzato la conferma dei target sull'intero 2014, quindi tutto sommato l'accoglienza è stata positiva. Paolo, Fiat, alle 18 abbiamo anche i dati sulle immatricolazioni, ma in vista di questo, ma anche ormai dobbiamo guardare soprattutto a Chrysler, che influisce molto sull'andamento di Fiat, cosa ci puoi dire? Sì, proprio Fiat, che ricordiamo martedì approverà la trimestrale e il nuovo piano proprio del gruppo di Fiat Chrysler. Oggi il mercato titolo ha guadagnato lo 0,35%, beneficiando proprio in attesa delle immatricolazioni dei dati sulle vendite di Chrysler negli Stati Uniti, che sono stati migliori delle attese. In aprile Chrysler ha visto aumentare le vendite del 14% rispetto a un anno prima, facendo meglio del mercato che era salito soltanto dell'8%, quindi i dati americani hanno sostenuto Fiat, che ha chiuso appunto in avviato dello 0,35%. E per chiudere, Paolo, l'editoria Mondadori, mi sembra indicazioni positive dai vertici dell'assemblea dello scorso mercoledì. Sì, mercoledì si è riunita l'assemblea e i vertici hanno fornito indicazioni positive sull'andamento del gruppo nei prossimi mesi, indicazioni che avevano sostenuto il titolo per gran parte della seduta, è stato tra i migliori al di fuori del FTSE per gran parte della seduta, ma anche in questo caso sul finale sono tornate le vendite, tanto che il titolo alla fine ha chiuso in calo dello 0,67%. Comunque diciamo che il tema è proprio quello di indicazioni positive sull'andamento della redditività nei prossimi mesi e nell'intero 2014, e per gran parte della seduta il titolo aveva beneficiato di questo. Sette 46, di nuovo insieme Focus Economia, Vincenzo Miglietta. Apriamo adesso il nostro approfondimento dedicato agli Stati Uniti, un paese che nonostante tutto mostra dei numeri economici, della sua forza economica ancora molto validi, è stato uno dei primi a saper prendere la crescita quando questa si è palesata rispetto all'Europa, è veramente 2-3 anni almeno sul tema della crescita avanti, ed oggi è arrivata negli Stati Uniti la cancelliera tedesca Angela Merkel. In programma un colloquio di 4 ore con il presidente Barack Obama, in agenda la crisi ucraina che dovrebbe mettere in secondo piano, secondo gli esperti, lo scandalo legato all'Agenzia per la Sicurezza Americana, o quantomeno secondo alcuni vi sarebbe un tacito accordo tra la Merkel e Barack Obama affinché nessuno dei due insista più di tanto su uno dei due argomenti. E poi ancora tra gli altri temi di discussione l'accordo commerciale transatlantico, questo secondo fonti tedesche, ma conosce molto meglio di me l'argomento Stati Uniti e la sua economia Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Ciao Mario. Eccoci, buongiorno, sì. Beh, devo dire che il dato sull'occupazione americana ha immediatamente riportato ottimismo, o comunque dato maggiore concretezza all'ottimismo che abbiamo ascoltato subito dopo il dato sulla crescita americana, che è stato, come sai, negativo dello 0,1% per il primo trimestre. Bene, ieri l'economia americana ha dato, il dato l'abbiamo avuto questa mattina, ma è un consuntivo che risale a ieri notte, ha creato 288.000 nuovi posti di lavoro. 288.000 posti di lavoro in un mese, beh, devo dire, è un numero non da poco, è uno dei più alti degli ultimi anni. Certamente il tasso di disoccupazione, che è sceso al 6,3%, è il più basso dal 2008. Ecco, dunque, questo conferma che la pausa che abbiamo avuto per l'economia americana nel primo trimestre era legata soprattutto al freddo, al brutto tempo, alla paralisi dell'economia. Non appena arrivata la primavera, le porte delle aziende si sono riaperte, hanno ricominciato ad assumere. Altri dati consuntivi interessanti negli ultimi giorni che confermano il quadro ottimistico sono gli ordini dei beni durevoli, tutto sommato positivi, e i consumi, che stanno andando piuttosto bene. Dunque un quadro roseo, certo, per l'economia americana, anche se qualcuno dice non può essere stato soltanto il freddo, forse bisognerà rivedere le previsioni di tassi di crescita per il 2014, che erano molto elevate, alcuni dicevano anche 3-3,5%, attorno al 2-2,5%. Ma quindi siamo in fase, certo, Mario, ma secondo te, lo dicevi poc'anzi, siamo tornati, per quanto riguarda l'aumento in un mese dei posti di lavoro, alla situazione pre-crisi di fatto, quindi al 2008? Sono lontani ancora quei tempi, o veramente almeno gli Stati Uniti stanno livellandosi comunque sull'andamento che c'erano in quel paese 5 anni fa? Ma sì, devo dire che a questo punto la situazione si è normalizzata, anche per questo la Federal Reserve ha detto che continuerà a tenere i tassi di interesse bassi indipendentemente dal livello originario del 6-5% che aveva posto come chiave determinante per procedere con degli aumenti di tassi. Ecco, il tasso di disoccupazione sta scendendo rapidamente, non siamo ancora tornati a quei livelli di piena occupazione a cui ci eravamo abituati subito prima della crisi e comunque nel grande boom che abbiamo avuto nei primi anni del 2000, però voglio dire il recupero è straordinario, soprattutto se pensiamo che in Europa abbiamo ancora un tasso di disoccupazione medio vicino all'11,3%, e di questo anche oggi hanno parlato, dico hanno parlato perché il primo giro di colloqui sta per finire a minuti fra Angela Merkel e Barack Obama, anche di questo, dunque di economia hanno parlato, ma il tema centrale sul tappeto resta quello dell'Ucraina. Ci sono forti pressioni dei gruppi, delle lobby di business tedesche, pressioni molto esplicite perché la si chiuda con le sanzioni contro la Russia. La Germania ha un giro d'affari molto forte con la Russia, l'America lo ha molto molto basso e dunque i businessmen tedeschi dicono ma perché dobbiamo essere noi a pagare a rimetterci in questa crisi, certo. Ecco, devo dire è su questo che l'attenzione si concentra, vedremo, fra poco ci sarà la conferenza stampa congiunta, vedremo se la Merkel si è piegata come alcuni anticipano, devo dire, davanti alle richieste della comunità degli affari tedesca, oppure se continua a mantenere solida l'alleanza con gli Stati Uniti, e cioè che Putin, che prosegue in questa sua escalation, in qualche modo deve essere minacciato o fermato. Ma è vero, Mario, che di fronte a queste priorità economiche anche la Merkel potrebbe rinunciare alle rivendicazioni conseguenti a tutta l'indagine spionistica di Snowden che ne derivava? Voleva fare la voce grossa, ricordiamo il cellulare della Merkel controllato dai servizi di sicurezza americani? No, direi sulla questione Snowden non si sono messi d'accordo, questo l'ho saputo prima da fonti tedesche, si cercava un accordo per poter trovare un metodo che andasse bene alla Germania, ma Barack Obama si è impegnato a non spiare più i telefonini della Merkel, ma non si è espresso esplicitamente su altri funzionari. Del resto, voglio dire, tutti i paesi di qualunque regime usano i loro servizi di controspionaggio per cercare informazioni e dunque era difficile che si potesse trovare un accordo in cui l'America rinunciasse a tutto. Ma ti ripeto, questa cosa non credo sia oggetto di baratto, credo passi piuttosto in secondo piano. Ecco, Mario, tu che conosci molto bene gli Stati Uniti, come è stata presa la notizia, tornando ai temi più prettamente economici, di questo pseudo sorpasso, se poi c'è stato effettivamente, della Cina nei confronti degli Stati Uniti in termini assoluti a livello economico? Tu che vivi lì, che conosci molto bene quell'economia, è una cosa tangibile? C'è stato un arretramento da parte degli Stati Uniti o sono solamente in termini assoluti? Bisogna poi vedere in effetti anche la qualità di vita dei cittadini di entrambi i paesi. No, guarda, direi che l'America è molto tranquilla, è curioso che questa notizia l'abbia data il Financial Times, che ogni tanto punta sul sensazionalismo esaminando dei dati che riguardano il purchasing power, cioè la parità del potere d'acquisto. Ma l'America non si preoccupa, la Cina sta recuperando, non è che sia l'America che arretra. Abbiamo da una parte un paese con oltre 1 miliardo di persone, dall'altra un paese che ha 300 milioni di persone, quindi un terzo della popolazione. È inevitabile che da qui ai prossimi 20 anni la Cina recupererà il terreno che ha perso nel secolo scorso, direi per buona parte del secolo scorso, e dunque si sta ritornando a degli equilibri di normalizzazione che erano stati cambiati da un punto di vista strutturale, da 2 guerre mondiali, da rivoluzioni comuniste e così via, così via. La Cina recupera, ma questo non significa che l'America faccia peggio, anzi, più la Cina cresce, più l'America è contenta perché può esportare. E tra l'altro aggiungerei un altro punto di riferimento che non è secondario, che e il reddito pro capite, ecco, su quello l'America credo che continuerà a dominare per molti, molti anni. Un'America che continua a dominare anche nella liquidazione, Mario, che viene data ai grandi condottieri delle grandi aziende americane. Ho di fronte a me i numeri del CEO di Ford Motors che se ne va a liquidazione da 300 milioni di dollari. Insomma, la crisi in America non ha insegnato nulla per quanto riguarda le varie liquidazioni. Ma guarda, credo che debba insegnare qualcosa a noi questo messaggio. Io ti dirò che sono molto sorpreso dal populismo dilagante che vediamo in Italia quando si vogliono porre dei tetti a certi salari di certi manager che meriterebbero per la loro performance compensi adeguati a quelli della media internazionale. La liquidazione è una liquidazione che è calcolata sulla base della performance, così come guadagna il capitale, perché noi abbiamo visto delle aziende e degli imprenditori che hanno moltiplicato di molto le loro posizioni nette di capitale negli ultimi 5 o 6 anni, è altrettanto giusto che quei manager che hanno portato a quei risultati per i loro azionisti, secondo me, ricevano i benefici. I 300 milioni sono stati calcolati sulla base di un percorso pluriennale, sulla base di bonus, sulla base di liquidazioni, e sono in gran parte calcolati in titoli che erano stati erogati al manager come premio appunto per la sua produzione. Quindi in sostanza c'è una profonda differenza, dici tu, tra il dibattito italiano sui manager pubblici e in questo caso un'azienda privata, laddove si produce e si raggiungono alcuni risultati, è giusto che siano questi premiati. Questa, in funzione questa è la posizione americana. Insomma, per risponderti, qui non si è scandalizzato nessuno. Non si è scandalizzato nessuno e bisogna capire anche se queste cifre sono poi accompagnate anche da paralleli progressi nel campo occupazionale. Adesso io non so la situazione della Ford e come ha raggiunto poi anche questi numeri. Sì. Ma guarda, la Ford è interessante perché la Ford è stata l'unica delle tre grandi che non ha chiesto l'aiuto federale. Cioè la Ford è riuscita ad andare avanti da sola, ha avuto gli aiuti del governo americano come hanno avuto General Motors e Chrysler, e quindi ha dato prova di avere qualità manageriali. Ricordiamolo, la Ford tra l'altro è controllata ancora dalla famiglia per certi diritti di voto che hanno nel pacchetto azionario. Certo. E dunque ha dimostrato di poter gestire, di poter navigare le turbolente acque delle crisi con grande autonomia, con grande forza. Va bene, grazie a Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Focus Economia, Vincenzo Miglietta. Ripartiamo dai dati sulle immatricolazioni italiane ad aprile, parliamo quindi del mercato dell'auto, più 1,9%, quindi un buon risultato per quanto riguarda le immatricolazioni nel mese di aprile, andamento questo che però non si riflette nello specifico per quanto riguarda il marchio Fiat, che perde nello stesso periodo preso in considerazione l'1,7%, la sua quota di mercato scende su base annua, quindi aprile su aprile dello scorso anno, dal 30 al 29 per cento. Quindi due dati in controtendenza, le immatricolazioni continuano il loro andamento positivo che sta avvenendo da inizio anno, gennaio, febbraio, marzo, sempre in andamento positivo, ma questa richiesta di nuove auto non sembra premiare i modelli Fiat. Parliamo di tutto questo con il nostro ospite Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi di Promoter. Buon pomeriggio, Quagliano. Buonasera. Buonasera. Allora, questi primi dati, è giusto un pochino il mio commento iniziale sul marchio Fiat, ma soprattutto mi sembra positivo l'andamento più generale delle immatricolazioni, più 1,9%. Sì, l'andamento è positivo, avrebbe potuto essere anche un pochino più favorevole, ma vi è stato l'annuncio degli incentivi ecologici negli ultimi giorni del mese e quindi un po' di immatricolazioni sono state rinviate perché gli acquirenti pensano di poter usufruire degli incentivi. Comunque il dato è ugualmente positivo, anche se bisogna rilevare che si tratta di incrementi, questo e anche quelli dei mesi, dei quattro mesi precedenti, che sono ancora piuttosto contenuti se si considera che il mercato è sceso, era sceso nel 2013 a livelli veramente infimi, del 47% al di sotto dei livelli antecrisi. Quindi un mercato quagliano che si è dimezzato dal 2008, quando è iniziata la crisi. Sì, esatto, rispetto si ad adesso. È dimezzato e adesso la caduta si è fermata, e però per recuperare il terreno perduto occorre una ripresa con tassi ben più sostenuti di quelli che vediamo che abbiamo visto in questi mesi. Ecco, per far capire ai nostri ascoltatori, nel periodo pre-crisi, in un mese, che percentuali di incremento avevamo e soprattutto in che numeri assoluti, di cosa parliamo, di quante vetture? Viaggiavamo mediamente intorno alle 200.000 vetture al mese, un po' meno, e adesso invece viaggiamo intorno alle 100.000 vetture al mese, quindi il mercato, poi questo 2013-2014 c'è un 5% mediamente in più, però siamo sempre su livelli molto bassi. Ecco, quindi, un mercato che quagliano, quali vetture va a premiare, se c'è un segmento al di là dei marchi? Abbiamo detto di Fiat meno 1,7%, ma nei segmenti abbiamo... interessante. Ma i segmenti bassi, noi abbiamo fatto un sondaggio sui concessionari, una inchiesta sui concessionari proprio in aprile, da cui emerge che gli elementi importanti per decidere l'acquisto non sono tanto le caratteristiche delle vetture, ma sono l'ordine, il prezzo, la possibilità di avere credito e la possibilità di avere una vettura che consumi poco. Questi sono gli elementi che attualmente il mercato considera maggiormente. Naturalmente, quindi, si trovano soprattutto nei segmenti bassi. Certo, non si fa più quel paragone a parità di modello delle varie caratteristiche tecniche, se non solamente quello del consumo, ma quindi si punta a caratteristiche tra cui il prezzo e il consumo, quindi che permettano un accesso facile da chi non certo può spendere molto. La novità premia sempre, naturalmente, però a parità di novità del modello si privilegia soprattutto il prezzo. Il prezzo è il primo elemento, il prezzo, e poi ci sono altre considerazioni, ma sono tutte di carattere economico. Ecco, ci sono delle case automobilistiche che sono andate dietro a queste caratteristiche di scelta del consumatore, ovvero si sono avvicinate con modelli da un prezzo particolarmente favorevole o puntando molto sui bassi consumi? Beh, sui bassi consumi stanno puntando tutti, perché i bassi consumi sono necessari per ridurre anche le emissioni. Quindi tutti stanno puntando sui bassi consumi, i consumi sono drasticamente calati. I marchi che sono maggiormente favoriti sono quelli che hanno le gamme più ampie, perché oggi una vettura non può essere pensata per un solo mercato, viene pensata per il mercato globale, e quindi le marche che coprono segmenti molto ampi di mercato si trovano ad essere in una condizione anche favorevole anche nel mercato italiano. Venendo quagliano al gruppo Fiat, che comunque per quanto Fiat sia mezzo americano, almeno per quanto riguarda grandi fette della produzione, interessa sempre gli ascoltatori. Beh, diciamo che è sempre nel cuore e nella mente degli italiani, però il gruppo certo Fiat sta pagando un po' la politica che ha fatto anche per acquisire Chrysler, che è stata una politica volta soprattutto a privilegiare i margini e non tanto i modelli, quindi si trova con una gamma che non è recentissima nella maggior parte dei casi e che comunque ha un grande bisogno di essere integrata con nuovi modelli. Ma proprio mi pare il 6 maggio ci sarà l'annuncio dei nuovi modelli da parte di Marchionne, quindi speriamo che vengano dei segnali positivi. Per quanto quagliano, brevemente andiamo a chiudere, adesso guardando nello specifico i dati, la flessione di Fiat è sull'anno, quindi aprile-aprile, ma è comunque in recupero rispetto al marzo di questo anno, quindi evidentemente sì, esatto, una controtendenza c'è. Sì, c'è un recupero, è iniziato all'inizio dell'anno per la verità, sta proseguendo e poi vediamo che cosa verrà annunciato il 6 maggio. Benissimo. Penso che ci saranno delle novità interessanti. Di nuovo insieme Focus Economia per l'ultima parte di questa trasmissione che va a chiudere la settimana. Parliamo di un altro argomento molto caro a tutti quanti. Abbiamo parlato poco fa della Fiat, altro marchio molto importante per il nostro paese, quello del vettore Alitalia. Facciamo brevemente il punto. Martedì scorso è arrivata la lettera da Abu Dhabi che segna l'avvio del lavoro vero sui nodi salienti da sciogliere, lettera di Etihad, il vettore di Abu Dhabi, lettera che dovrebbe contribuire quindi ad arrivare ad un accordo, ad un compromesso su alcuni nodi, debito, esuberi, contenziosi, pregressi e infrastrutture. Etihad si dice disposta a riprendere le trattative per il suo ingresso nell'azionariato di Alitalia, mettendo sul piatto 500 milioni di euro, ma da Abu Dhabi è stato ribadito anche la condizione per entrare in pieno nella trattativa, ossia la riduzione dell'organico di almeno 2.000 unità, non 3.000 come in alcuni casi indicato in precedenza, ma con la possibilità di riassumere alcuni piloti, la tutela di fronte a contenziosi legali, pregressi della compagnia, il taglio del debito bancario. Questi sono un po' le condizioni di Etihad, ma di Alitalia ha parlato, la segue, ne scrive il collega Gianni Dragoni del Sole 24 Ore. Ciao Gianni. Ciao ciao. Gianni, allora, questa mattina l'amministratore delegato di Alitalia del Torchio dovrebbe aver incontrato le banche, gli azionisti, non ho la certezza, non so se ce l'hai tu di questo incontro, per illustrare la lettera di Etihad. Cosa può aver detto del Torchio ai suoi azionisti di riferimento? Quello che può aver detto, perché non, nessuno in questo gioco in cui si fanno uscire delle indiscrezioni o veline, spesso parla Lupi come se fosse una sorta di portavoce di questa operazione, ma, quindi potrebbero esserci anche dei depistaggi. Quello che potrebbe aver detto, basandoci su quello che conosciamo delle richieste che Etihad ha ripetuto nell'ultima lettera di martedì, sono i nodi. Allora, il nodo della trattativa, il principale in questo versante, ma è proprio il principale della trattativa, è quello con le banche, a cui viene chiesto di rinunciare in pratica a crediti per 400 milioni di euro, crediti che dovrebbero essere o proprio cancellati o forse convertiti in capitale comunque di una società che è in forte perdita, quindi un capitale che poi potrebbe avere poco valore se la società non si riprende. È Intesa San Paolo la banca chiamata soprattutto a questo sacrificio eventuale, perché è la banca più esposta, è anche quella che ha fatto da madrina tutta l'operazione ed è anche azionista con il 20% di Alitalia. E su questo sappiamo che c'è stata finora una resistenza, addirittura Miccichè di Intesa San Paolo era arrivato a negare che ci fosse questa richiesta nelle scorse settimane, per dire come non vogliano accettare un sacrificio. Adesso credo che le banche potrebbero cercare comunque di trattare per limitare eventualmente i danni, anziché 400 milioni di svalutazioni, una somma più bassa. Non so quanto siano disposti a Etihad certo, a una mediazione. Ecco Gianni, in questo momento 18:16. Leggo in agenzia di un vertice a Milano proprio sulla proposta di Etihad tra Colaninno e del Torchio, mentre leggendo Gianni gli sms che ci scrivono i nostri ascoltatori al 349-238-6666, ti rivolgo questa domanda che è un po' ripetuta nei messaggi che ci arrivano. Allora, fermo restando che gli arabi fanno benissimo a fare le pulci sui conti di Alitalia, come mai però da chi storicamente è disposto a spendere anche cifre molto più elevate su Alitalia c'è sempre questo braccino corto, come ci scrive un nostro ascoltatore. Etihad sta negoziando in una posizione di grande forza, perché l'Italia è andata praticamente a consegnarsi a questi soci arabi in una trattativa cominciata diversi mesi fa. Intanto le sue perdite, i suoi debiti sono aumentati e ha rotto un po' i ponti con Air France KLM, che è azionista, lo è ancora, ma in quota ridotta, e quindi l'Italia adesso è più all'Italia ad aver bisogno di soldi, soprattutto anche di un possibile partner se Etihad vorrà essere, ma Etihad non ha bisogno dell'Alitalia, quindi può sempre dire no. Sembra che stia attivando al massimo le condizioni per entrare, praticamente per averla regalata, perché taglio, certo, di molti lavoratori, debiti, una serie di condizioni con gli aeroporti regolatori che nessuno ha avuto, però loro diciamo non sono obbligati a fare questa operazione, quindi forse la vogliono fare a condizioni di grande sicurezza. Giustamente, sono in una posizione di forza e fanno valere questa loro posizione contrattuale. In tutto ciò, anche se la quota è abbastanza minoritaria, parliamo ancora del 7%, Air France che cosa fa in tutto ciò? Sta alla fine, osserva, gli va tutto bene? È vigile, perché forse, almeno io anch'io credo, che non si aspettasse che ci potesse essere un interesse effettivo di un'altra compagnia importante come Etihad a poter investire nell'Alitalia, dopo che ha detto noi non facciamo l'aumento di capitale in dicembre. E però le condizioni che Etihad ha posto, in particolare quelle finanziarie sul taglio del debito, coincidono con quelle che aveva posto Air France. Allora io mi chiedo, ma può darsi che tra queste due compagnie, dietro un'apparente, come dire, distanza, ci sia una sorta di intesa benevola? Perché non dico che ci sia un accordo esplicito, però Air France ha degli accordi commerciali, certo, per i voli da Parigi ad Abu Dhabi, sta discutendo un ampliamento, non sono accordi azionari, e comunque rappresenta un peso più importante, certo, quindi penso che Etihad non farebbe una mossa ostile Air France, se non d'accordo non lo farebbe una mossa ostile. Ed è indubbio, Gianni, che anche Air France, pur avendo una quota azionaria inferiore al 10%, ha tutto l'interesse perché il suo investimento venga tutelato. Se arriva una terza persona e praticamente taglia personale e ripulisce dai debiti, Air France non ha solo che da guadagnarne. Ma in tutto ciò, una domanda che ci fanno in molti e che di solito riguarda soprattutto l'Italia, Gianni. L'Alitalia è totalmente un'azienda privata. Perché allora periodicamente si guarda sempre a Palazzo Chigi, in questo caso anche al ministro Lupi, perché possa fare o dire qualcosa nella vicenda del futuro della ex compagnia di bandiera? Intanto il governo e lo Stato è rientrato con un piede però importante dentro l'Alitalia col piano di salvataggio, i 300 milioni dell'aumento di capitale terminato in dicembre. Le Poste hanno messo 75 milioni e hanno quasi un po' meno del 20% del capitale, quindi lo Stato è ritornato a salvare, e le banche avevano chiesto che lo Stato intervenisse, certo. Si vede che le banche non si fidano di quelli che sono stati gli azionisti privati, i patrioti, i capitani coraggiosi chiamati da Berlusconi, sì, certo, guidati da Colarino, ma e guidati anche da Banca Intesa, solo che c'era Passera, che oggi non c'è più nella banca. Sarebbe lui semmai che dovrebbe occuparsi un po' di rimettere insieme questi pezzi del mosaico che sta un po' andando a fondo. E non è la prima volta che vediamo aziende, quando hanno dei problemi, delle difficoltà gravi che i loro azionisti sembrano non voler risolvere, perché questi azionisti non hanno intenzione di mettere altri soldi. È stata già un po' un'eccezione quel poco che hanno messo nel salvataggio di dicembre, e quindi di chiedere al governo di andare quasi, potremmo dire, col cappello in mano, ma io credo che vadano a volte anche in realtà con arroganza, senza riconoscere i loro errori, perché qui sono stati fatti degli errori clamorosi nella gestione della CAI in 5 anni. Le altre grandi compagnie non hanno avuto un andamento così peggiorativo, nonostante la crisi sia abbia toccato anche loro. Quindi gli stessi arabi sono stati indotti a vedere nel governo, da quando Letta ha fatto fare l'intervento delle Poste, come dire, una sorta di garante. Certo. E quindi questo ha fatto sì che però è un po' un qualcosa di ibrido, semmai anche di un pasticcio, perché si rischia poi alla fine che lo Stato, pur non essendo responsabile della gestione, possa essere chiamato semmai, se la cosa andrà male, a mettere altri soldi, a fare un salvataggio, ecco, molto più costoso. Gianni, ci avviamo alla chiusura, ma ti volevo chiedere quanto può influire sulla trattativa invece poi il destino degli aeroporti milanesi. Malpensa, se rientra comunque anche indirettamente in un eventuale accordo con Etihad, ma anche Linate? Ma da quello che sappiamo, allora, quello che rientra sicuramente nel possibile accordo è Fiumicino come centro principale, come già oggi dei voli dell'Alitalia, parliamo anche dei voli internazionali o intercontinentali. Poi c'è un forte interesse a mantenere un'attività a Linate, siccome Linate oggi ha un'attività che è limitata dal decreto Bersani del 2001, voli solo entro l'Unione Europea, e quel decreto fu fatto non per non penalizzare Malpensa, ma fu fatto per aiutare l'Alitalia contro i concorrenti, che sennò da Linate potevano volare in tante altre destinazioni europee, certo, parlo certo. di British Airways, Lufthansa. Allora, siccome l'Italia dovrebbe ridurre certi voli da Linate, perderebbe i diritti, questi diritti finirebbero alla concorrenza, EasyJet, Lufthansa e così via, potrebbero finire ai concorrenti. Per tentare di evitare questo, perché questa parte non viene spiegata, ma questa è la molla da cui nasce tutto, il governo sta esaminando un possibile decreto che ampli la possibilità di volare da Linate anche verso la Russia. Forse gli arabi vorrebbero persino ad Abu Dhabi, ma oggi credo ci sarebbe un limite fisico della pista. Se però si andrà a toccare questo, oltre all'impatto su Malpensa, perché è chiaro che essendo Linate l'aeroporto, come sappiamo, più vicino a Milano, quindi certo, è quella più almeno dai milanesi, ogni volo in più a Linate è un colpo a Malpensa, è un colpo. Quindi indirettamente. Però benissimo. Questo decreto andrebbe concordato con l'Unione Europea, perché Lufthansa o British Airways non si farebbero fare un decreto che avvantaggia l'Italia e Etihad e danneggi loro, quindi la vedo come una via molto complicata questa del decreto. Bene, bene, staremo a vedere dunque. Grazie a Gianni Dragoni, collega del Sole 24 Ore, ringrazio Barbara Bianchi, Mauro Del Corno, Alessandro Chiappini, un saluto da Vincenzo Migliette, buon fine settimana. Radio 24, la passione si sente.